che non è affatto vero che, diciamo, non ci sarebbe spazio per cose come gli Eurobond. Pensi a una cosa, che i paesi che li chiedono non hanno mai definito un piano per gli Eurobond. Se Monti domani volesse andare al Consiglio europeo e chiedere gli Eurobond, potrebbe scrivere con i suoi ministri un piano. Al contrario, la Germania lo ha fatto. Il piano dei cinque saggi degli Eurobond è considerato uno dei piani migliori scritti e proposti. In Italia, in Spagna e in Grecia questo piano non è mai stato proposto. In Germania viene discusso quotidianamente e non è interesse della Germania discutere di Eurobond. Allora, spieghiamo perché il piano dei cinque saggi non è discusso in Italia e non sarebbe accettato. Perché il piano degli Eurobond prevede che, giustamente, quando si emettono dei bond comuni, va offerta una garanzia, e di solito si pensa a garanzie in termini di riserve auree oppure in termini di altre attività reali. Se si vuole mutualizzare il debito, così come si sta chiedendo, non si può chiedere alla Germania semplicemente di pagare. Un'assicurazione o una mutualizzazione prevede che si offra una garanzia a fronte dell'emissione del debito, o che, se si faccia un fondo comune che debba aiutare gli stati, tutti gli stati debbano contribuire. Cioè, al momento pensi che, per esempio, la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda ricevono gli aiuti ma non contribuiscono. È come se lei partecipasse a un fondo assicurativo, non ne paga il premio, però se fa un incidente richiede di essere rimborsato.